Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Questo è Le fiamme e la ragione di e con Corrado Augias, musiche di Alessandro Severa. Io, Galileo, figlio di Vincenzo Galileo di Fiorenza, dell'età d'anni 70, inginocchiato avanti di voi, eminentissimi e reverendissimi cardinali, avendo davanti gli occhi gli sacrosanti Vangeli quali tocco con le mie mani, giuro che sempre ho creduto, credo adesso e con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire tutto quello che tiene, predica e insegna la Santa Cattolica ed Apostolica Chiesa. Da questo santo ufficio mi è stato intimato che dovessi abbandonare la falsa opinione che il sole sia centro del mondo e che non si muova, e che la terra non sia centro del mondo e che si muova, e che non potessi tenere, difendere né insegnare in qualsivoglia modo, né in voce né in iscritto, la detta falsa dottrina. Pertanto, volendo io levar dalla mente delle eminenze vostre e d'ogni fedel cristiano questo veemente sospetto che giustamente grava su di me, con cuor sincero e fede non finta, abiuro, maledico e detesto gli suddetti errori e teresie. E giuro che per l'avvenire non dirò mai più né asserirò in voce o in iscritto cose tali per le quali si possa aver di me un simile sospetto. E se conoscerò alcun eretico che sia sospetto d'eresia, lo denuncerò a questo santo ufficio, ovvero all'inquisitore o ordinario del luogo dove mi troverò. Io, Galileo Galilei, ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obbligato come sopra. E in fede del vero, di mia propria mano ho sottoscritta la presente cedola di mia abiura e recitatela di parola in parola in Roma, nel convento della Minerva, questo dì 22 giugno 1633. Non di Galileo Galilei, matematico, fisico, astronomo, parleremo questa sera, ma di un processo che si era svolto 33 anni prima e che ebbe esito tragico. Intendiamoci bene, anche la vicenda di Galileo è tragica. Bisogna immaginare quest'uomo, questo vecchio glorioso di 70 anni, rivestito del saio penitenziale in ginocchio sulla nuda pietra davanti ai suoi giudici, che rinnega e abiura una teoria cosmologica che sa essere vera perché l'ha sperimentata. È la tragedia che si è ripetuta ogni volta che uomini fattisi giudici hanno condannato, non in base a ragioni della scienza o a motivazioni della razionalità, ma sulla base di dogmi indiscutibili. Nel giugno del 1633 a Roma si consumò una tragedia della libertà, ma 33 anni prima, sempre a Roma, si era consumata un'altra tragedia, chiusa in questo caso non da una biura, come nel caso di Galileo, ma dalle fiamme di un rogo sul quale un altro libero pensatore e scienziato, il filosofo Giordano Bruno, era stato bruciato vivo. Lo scopo del racconto di questa sera è di cercare di capire come si arrivò a quel gesto criminale. Sappiamo che a quei tempi finiva sul rogo chi era accusato d'eresia o, nel caso di donne, chi fosse tra le donne accusata, sospettata anche alle volte, di stregoneria. Non è il caso di Giordano Bruno, non si manda sul rogo un pensatore di quel calibro solo per ragioni di dottrina. L'esecuzione avvenuta a Campo dei Fiori vuole altre spiegazioni e le trova. Infatti, nelle poche parole che ora udrete, cercherò di inquadrare l'orrore di quelle fiamme nel particolare momento storico che, in un certo senso, se non arriva certo a giustificarle, quantomeno fa capire da quali complesse ragioni quella condanna, quella atroce esecuzione venne motivata. Giordano Bruno nasce nel 1548, ricordate, metà del XVI secolo. Era stato chiamato Filippo in onore del re di Spagna Felipe II, era di Nola, una dozzina di miglia da Napoli, venuto al mondo in una famiglia modesta che per risparmiare lo mandò a studiare, a imparare a leggere, scrivere e far di conto dai preti. Vivace di ingegno com'era, proseguì gli studi arrivando appena quindicenne all'Università di Napoli per apprendervi lettere, logica, dialettica, che erano le arti, le conoscenze delle persone che puntavano alto. Entra in convento e, come imponeva la regola, abbandona il nome Filippo scegliendo quello di Giordano, probabilmente in onore di un suo insegnante. Ha scelto di farsi domenicano, non perché senta una particolare vocazione, ma, come egli stesso confesserà, perché quella condizione gli consente di studiare l'amata filosofia garantendogli una certa assenza di affanni quotidiani, insomma di non dover provvedere al suo mantenimento, a mangiare tutti i giorni. Gli evita molte noie. La sua vita fu errabonda, nel senso più completo della parola. Pensate, Savona, Torino, Venezia, Padova, Brescia, Bergamo, Chambéry, Genève, Lyon, Toulouse, Parigi, Oxford, Londra, Magonza, Wiesbaden, Praga, per dire solo alcune delle città, siamo, ripeto, nella seconda metà del XVI secolo, alcuni immaginate i viaggi, le strade, eccetera, nelle quali ha soggiornato. E poi, dopo tante peripezie, di nuovo in Italia, Padova, Venezia, dove comincerà la sua fine per i futilissimi motivi che tra poco vedremo. Nel 1576, quando non ha nemmeno 30 anni, Bruno comincia a sostenere che Ario, voi sapete che da Ario prende nome una delle prime eresie, l'arianesimo, non aveva torto e di nutrire forti dubbi sulla natura della Trinità, dubitava che Figlio e Spirito Santo fossero davvero due persone distinte dal Padre. Egli le intendeva piuttosto il Figlio come intelletto, alla maniera di Platone, e lo spirito, alla maniera di Pitagora, come amore del Padre o anima mundi, come si diceva, anima del mondo, non persone distinte, manifestazioni della divinità. A Ginevra, però, abbandonato l'abito domenicano, si fa calvinista, diventa professore di teologia sacra in quell'università. Aderiva, dicono, a questa o quella religione purché non pregiudicasse le sue convinzioni filosofiche e il suo lavoro. Come è stato scritto, egli sarebbe stato cattolico in Italia, calvinista in Svizzera, anglicano in Inghilterra, luterano in Germania. La conseguenza pratica fu che si rese antipatico a molti e venne scomunicato da tutti. Nel suo libro De Umbris Idearum sono già contenuti i fondamenti della sua filosofia, ascoltate. Uno solo è il corpo dell'ente universale, uno solo è l'ordine, uno è il governo, uno solo è il principio, una sola la fine, una solo è il primo e uno solo è l'ultimo. Dunque ogni cosa ha pari dignità rispetto ad un'altra. E una sola cosa è quella che le definisce tutte, uno solo è lo splendore della bellezza in tutte le cose, un solo fulgore luccica dalla moltitudine della specie. Egli sa che così dicendo si contrappone nettamente all'insegnamento delle scritture, che sostengono il contrario, che l'universo è finito e che al suo centro si trova la terra. Noi, specie eletta, al centro di tutto l'universo creato. Questo dicono le scritture. Risponde, se gli dèi si fossero degnati di insegnarci la teorica delle cose della natura, cioè la scienza, che l'universo è finito e al suo centro si trova la terra, come ne han fatto favore di proporci la pratica delle cose morali, io piuttosto mi accosterei alla fede e quelle rivelazioni che muovermi punto dalla certezza delle mie ragioni e dei miei sentimenti. Io volentieri seguirei quegli insegnamenti, se a quegli insegnamenti potessi prestar fede. Ma la mia esperienza e la mia ragione mi dice che quelle cose non sono vere, che devo fare? La fede, scrive, si richiede per l'istituzione di rozzi popoli che denno essere governati, mentre la consapevolezza che esistano mondi infiniti e che questo universo infinito non abbia un centro e men che mai questo eventuale centro possa essere il misero pianeta chiamato Terra. Tutto questo può diventare causa di gravi scompigli, materia tale da far perdere la fede a chi ce l'ha e di suscitare anche nell'ordinamento politico disordine e frastuono. Questo è un uomo che ragiona nella seconda metà del Cinquecento solo sulla base di intuizioni, di un sapere che lui intravede nell'ordine dell'universo e dice cose che anticipano la consapevolezza che esistano mondi infiniti e che questo universo infinito non abbia un centro e men che mai questo eventuale centro possa essere il misero pianeta chiamato Terra. Noi oggi da qualche secolo sappiamo che questa è la verità. Lui è stato uno dei primi a dirlo. Si tratta di ottenere un metodo conoscitivo che colga la complessità di questo reale come Bruno lo intuisce. Tale mezzo, secondo lui, è l'arte della memoria, il cui compito è di evitare la confusione generata dalla molteplicità delle immagini e di connettere le immagini delle cose con i concetti, rappresentando così simbolicamente tutto il reale. Più volte venne accusato di disporre di una smisurata capacità di memoria in seguito a un procedimento magico. Più volte dovette dimostrare che si trattava invece solo di tecnica e vedremo dove questo lo condurrà. Scrive molto, è irrequieto, errabondo, ostinato e grafomane. Ovunque si trovi nel suo eterno peregrinare, entra e esce dall'università iscrivendosi a volte come allievo, altre volte come cattedratico. Ovunque si segnala per la vivacità del temperamento e l'ingegno brillante, ma anche si deve credere per l'irriducibile cocciutaggine con la quale difendeva le sue idee. Scrive per esempio per il teatro e dà al teatro un testo che ancora oggi si rappresenta considerato un classico. Si chiama Il Candelaio, lo pubblica a 35 anni. È una commedia in 5 atti, scritta con un impasto linguistico molto originale fatto di latino, toscano e napoletano. Vi appare un mondo corrotto e violento, del quale l'autore e chi guarda lo spettacolo ride amaramente, proprio come ridiamo noi in certe satire politiche dei nostri anni, con la stessa amarezza. Nel titolo della commedia Bruno definisce se stesso, questo è molto importante, di accademico di nessuna accademia, ilare nella tristezza e triste nell'ilarità, e si fa una sorta di autoritratto. Par che sempre sia in contemplazione delle pene dell'inferno, un che ride solo per fare come fanno gli altri. Per lo più lo vedrete fastidito, restio, bizzarro, non si contenta di nulla, ritroso come un vecchio d'80 anni, fantastico come un cane che ha ricevuto 1000 spellicciate, pasciuto di cipolla. Un ritratto amarissimo. Nel corso dei suoi viaggi arriva a Helmstedt, nella cui università chiamata Accademia Julia si iscrive. Ma pochi mesi dopo il suo arrivo, luglio 1589, il fondatore dell'Accademia Julius von Braunschweig viene a morte. Bruno legge una orazione consolatoria nella quale, parlando anche di sé, dice: spregiai, abbandonai, perdetti la patria, la casa, la facoltà, gli onori e ogni altra cosa amabile, appetibile, desiderabile. In Italia, esposto alla gola e alla voracità del lupo romano, qui libero, lì costretto a culto superstizioso e insanissimo, qui esortato a riti riformati. Sta scherzando col fuoco, parla della riforma di Lutero. Qui esortato a riti riformati, lì morto per violenza di tiranni, qui vivo per l'amabilità e la giustizia di un ottimo principe. Ovunque in Europa egli vede, lo dice, il rischio dell'oppressione intellettuale, mentre la ricerca e l'arte, dice anche questo, devono essere libere per diritto naturale. In Italia e in Spagna le conculcano vili preti, in Francia patiscono rischi gravi per le guerre civili, in alcune regioni tedesche languono infelicemente. Sempre in quegli anni va a Praga, dove dedica alcune opere all'imperatore Rodolfo II, tratta di geometria e sostiene tra l'altro che per guarire i mali del mondo sia necessaria soprattutto la reciproca tolleranza. E questa, scrive, la religione che io osservo sia per una convinzione intima, sia per la consuetudine vigente nella mia patria e tra la mia gente, una religione che escluda ogni disputa e non fomenti alcuna controversia. Il filosofo dice, nella ricerca della verità deve essere libero dalle imposizioni delle autorità e delle stesse tradizioni. Il suo solo orizzonte è quello che la forza della ragione gli permette di intravedere, infatti, alle libere aree della filosofia cercare riparo dai flutti fortunosi desiderando la sola compagnia di coloro che comandano non di chiudere gli occhi, ma di aprirli. A me non piace dissimulare la verità che vedo, né ho timore di professarla apertamente. Parole che, come vedremo, avrà il coraggio inaudito di confermare durante il processo. A Francoforte c'era già allora, come oggi, una fiera del libro. Due librai che lavoravano entrambi a Venezia conoscono Bruno e gli chiedono di pubblicare alcune sue opere. Quando i libri escono a Venezia, un piccolo nobiluomo, tal Giovanni Mocenigo, acquista l'opera sulla mnemotecnica, dove insegnava i trucchi e l'allenamento per rinforzare la memoria, si invaghisce della possibilità di esercitare a tal modo la memoria e scrive a Bruno se venga di persona a insegnargliela, la mnemotecnica. Bruno acconsente, gli piace Venezia, apprezza l'aria relativamente più libera che si respira in quella repubblica, a differenza di tanti altri principati della penisola. Nel marzo 1592 prende dunque alloggio in casa del patrizio veneziano, avido di apprendere da lui l'arte della memoria e delle discipline magiche. Gesto avventatissimo. Non ha calcolato l'angustia mentale dell'uomo e lo pagherà duramente. Le poche note che ho detto finora si svolgono, i fatti a cui ho accennato si svolgono nella seconda metà del XVI secolo, terribile per la Chiesa, che è diventata come una cittadella assediata, perché all'inizio di quel Cinquecento, esattamente nel 1517, un altro frate ribelle, Martin Lutero, ha inchiodato con un gesto teatrale che ha risuonato in tutta l'Europa, sulla porta della cattedrale di Wittenberg ha inchiodato le 95 tesi contro la Chiesa di Roma. È cominciata con quel gesto forte, sonoro in tutti i sensi, la riforma protestante. La corruzione della Chiesa, la vendita delle indulgenze, la vita principesca dei cardinali, la contraddizione stridente tra il fasto degli abiti, delle cerimonie, i privilegi scandalosi, gli abusi sessuali, il dimenticato messaggio del Vangelo hanno colmato la misura. Con la riforma, la cristianità per la prima volta in quella dimensione si spacca. Roma perde il controllo di intere province, i paesi scandinavi, giunti tardi alla fede cattolica, escono per primi verso il riformismo protestante. Se ne va l'Inghilterra, tagliata via con un solo colpo netto di Enrico VIII negli anni 30. Il re inglese separa la sua isola da Roma e si fa capo della sua chiesa, anglicana ecclesia, apparentemente perché vuole un divorzio che il Papa non vuole concedergli, in realtà perché sa che il suo popolo è stanco di dipendere da quella città, quel Papa, quella religione. Balenano, si vedono in trasparenza, in quel gesto così eccentrico, assolutistico, principi che matureranno compiutamente solo un secolo dopo. Nel 1689, siamo un secolo e qualche anno dopo i fatti di cui ci siamo occupati e dei quali torneremo ad occuparci, il filosofo John Locke scrive la sua Epistola de Tolerantia, nella quale propone un programma di politica religiosa per togliere ogni componente e tentazione politica alla fede. Locke chiude il credo religioso nella sfera intima del singolo. Molti autori si pongono lo stesso problema, perché molti hanno capito che i dissidi di natura religiosa possono facilmente causare conflitti sanguinosi, come abbiamo visto per tutto il corso della storia e vediamo ancora oggi. Spinoza, Hobbes, Bale, Voltaire, Erasmo cercano di individuare, di descrivere i limiti entro i quali il potere politico può concedere l'esercizio della libertà religiosa senza pregiudicare la pace sociale. L'idea di fondo è che la religiosità dei singoli non deve interessare lo Stato fino a quando non rappresenti un pericolo per la convivenza tra i cittadini. C'è una sola esclusione a questo principio generale che fa Locke nella sua epistola. Egli esclude i cattolici dal beneficio della tolleranza sulla base di questo argomento. I papisti non devono godere del beneficio della tolleranza perché dove essi hanno il potere si ritengono obbligati a negare la tolleranza agli altri. Siamo nel 1689. Fino a quando saranno tenuti a una cieca obbedienza a un Papa infallibile che ha le chiavi della loro coscienza attaccate alla cintura, io penso che non debbano godere del beneficio della tolleranza. La sua discriminazione nei confronti dei cattolici nasce non da considerazioni teologiche, bensì da una valutazione pragmatica, che è nello stesso tempo politica, civile e di libertà religiosa. Sono del resto gli anni in cui Isaac Newton pubblica il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, saggio fondamentale in cui enuncia la legge della gravitazione universale, e Bernard de Fontenelle dà alle stampe la sua Histoire des Oracles, nella quale denuncia ogni forma di superstizione religiosa. È tutto insomma un complesso di opere che elaborano lo spirito dei tempi nelle quali si possono scorgere i primi balenii di quel grande movimento che culminerà un altro secolo dopo, 1789, nella Rivoluzione francese. Voltaire vi scorgerà un momento fondamentale dello sviluppo di una società libera. La logica conseguenza del principio esposto da Locke può essere riassunta in queste parole: le leggi non proteggono la verità delle opinioni, bensì la sicurezza e l'incolumità dei beni di ogni cittadino e della società nel suo complesso. In una visione laica, le leggi non sono fatte per difendere una verità, ma solo la sicurezza e l'incolumità sociale, al contrario di quanto sostenuto sia in alcune concezioni religiose, sia in quelle correnti della filosofia idealistica, soprattutto tedesca, che molti di noi hanno letto, che delineano lo stato etico. Penso a Hegel, agli hegeliani, fino a Marx. Torniamo alla riforma, che toglie alla Chiesa di Roma molta parte dell'Europa. Nei paesi di lingua tedesca la protesta è degenerata in guerra aperta. L'Olanda e la Svizzera covano sette eredicali. Perfino la Francia e la Polonia risentono dell'evangelizzazione protestante. Roma cerca riparo a tali drammatiche perdite con il Concilio di Trento. Questo concilio dura con varie interruzioni, tra molte polemiche, poco meno di 20 anni, dal 45 del 500 al 63. Con questo concilio Roma definisce la sua reazione alle dottrine del luteranesimo e di Calvino e di Zwingli, di tutti i grandi fondatori di confessioni protestanti. Fissa definitivamente la sua dottrina, la liturgia, compresa la messa in latino, recentemente richiamata dal Papa tedesco, il suo catechismo, perfino le norme che devono regolare la vita artistica, la pittura, la musica, la letteratura. Quegli angeli che sono comparsi prima, mi pare, qui sui fondali, erano un simbolo di quella pittura barocca che ha dato a Roma, di carattere sacro, che ha dato a Roma uno dei suoi connotati che ancora oggi durano. Roma è per la Roma del centro, di Roma è per la gran parte la Roma barocca seicentesca, tardo 500-600, nata appunto dalla Controriforma e dal Concilio di Trento. Verranno pubblicati poco dopo, conseguenza del Concilio, il Catechismo Tridentino, l'Indice dei Libri Proibiti. Questo fu lo shock provocato dalla riforma di Lutero, 1517. Da una parte l'Europa, che comincia ad avviarsi balbettando verso la modernità, dall'altra la Chiesa di Roma che cerca disperatamente di recuperare quello che aveva perduto autoriformandosi per quanto era possibile. Il povero Giordano Bruno, che è l'uomo, il soggetto del nostro racconto, purtroppo non considerò queste cose con la dovuta attenzione. Il dubbio oggi non è particolarmente popolare. Si associa il dubbio al famigerato relativismo, nel campo morale al relativismo etico. Io spezzerei una lancia a favore del dubbio, riflettendo su questo punto. Soltanto chi crede in qualche cosa può avere dei dubbi. Questa è un'osservazione banale, ma che normalmente non si fa. Chi non crede in nulla non può avere dubbi. Il dubbio è la forza che ci consente, ci impone, avendo delle certezze, di sottoporle a verifica. È il dubbio che ci fa procedere. La scienza e anche la morale ha progredito nel corso dei secoli solo perché di fronte a credenze ci si interroga sulla loro sostenibilità. Il dubbio è quindi una forza che ci consente di procedere oltre. Se non avessimo dubbi saremmo sempre fermi all'età della pietra. E aggiungo, il dubbio è una virtù che ci consente di procedere insieme e quindi di creare un contesto di discussione, di valutazione e di crescita sia nel campo scientifico sia nel campo etico, che crea un tessuto connettivo in forza del quale non è che ciascuno vada per conto suo, ma ciascuno procede insieme ai dubbi degli altri. Quindi ribadisco, il dubbio non è equivalente di nichilismo, di non credenza in nulla, anzi presuppone che si crede in qualche cosa e si creda che questo qualche cosa può procedere sempre verso ulteriori conquiste e ulteriori perfezionamenti. Persona che abbiamo ascoltato, questo elogio del dubbio, era il professor Zagrebelsky, che insegna a Torino, all'Università di Torino, ed è stato presidente della Corte Costituzionale di questa Repubblica, una delle menti più lucide su questi temi che abbiamo in questo Paese. Dovrei a questo punto, dopo quel piccolo salto in avanti, al 600 e addirittura un accenno al 789, tornare alla vicenda di Giordano Bruno, che abbiamo lasciato, come vi ricorderete, alle prese con quel suo nobiluccio veneziano. Invece bisogna vedere un altro aspetto della situazione. Perché si reclamava ovunque in Europa una separazione netta tra i poteri dello Stato e l'azione spirituale della Chiesa? Perché la Chiesa di Roma aveva messo insieme queste due attività così diverse, con finalità così diverse? Ebbene, questa situazione si può far risalire a ben 13 secoli prima, all'imperatore Costantino, il grande imperatore romano del IV secolo, che rende nel 313 il cristianesimo religio licita, cioè la ammette nel novero dei culti consentiti sotto l'imperio di Roma. In quel momento avviene la grande trasformazione. Nel giro di pochissimi anni la nuova fede, che aveva subito persecuzioni e impedimenti di ogni genere, si trasforma in una religione imperiale. L'anno prima l'imperatore, nel 312, aveva attribuito la sua vittoria contro Massenzio a Ponte Milvio, a Roma, a una visione celeste. In hoc signo vinces, pare fosse apparso tra le nubi del cielo. Leggende a parte, possiamo dire che l'intento di Costantino era più che altro di creare una religione unitaria per tutto l'impero. Da buon politico temette per tutta la vita le fratture e le divisioni, tanto più che l'impero si stava spaccando, come vedremo poco dopo, quello d'Oriente e quello d'Occidente. Ovvio quindi che si rendesse conto dell'importanza di un corpus normativo in base al quale definire la nuova religione che stava rimpiazzando quella antica, alla quale non credeva quasi più nessuno. Con la sua decisione Costantino si dimostrò imperatore capace di vedere lontano, soprattutto in grado di intuire che quella nuova fede così gagliardamente praticata, che si stava velocemente diffondendo in ogni classe sociale, poteva essere utilizzata come uno strumento di governo, rimpiazzando i vecchi culti. Il geniale meccanismo religioso della religiosità romana, che era sacra e civile e politica nello stesso tempo, che era stato per secoli uno dei punti di forza della città, aveva ceduto. Costantino fa con il cristianesimo il rimpiazzo, il surrogato di quella che era stata la religiosità romana classica. Anche lui, a Roma, l'imperatore era una divinità, Divus Augustus, assommava in sé le caratteristiche religiose e civili e politiche di comando, di imperio, eccetera. L'intuizione di Costantino è che il nuovo culto, i cui fedeli si dicono seguaci di un profeta ebreo morto 3 secoli prima su un patibolo romano in una sperduta provincia, può diventare un gagliardo sostituto degli dèi di una volta verso i quali il popolo minuto nutre ormai pochissima fiducia. Nel giro di 60-70 anni, dal 313, il cristianesimo diventa una religione di Stato. La vera conversione non fu quella di Costantino, che tra l'altro si fece battezzare solo in punto di morte, dopo aver ucciso sua moglie a calci e suo figlio col veleno perché temeva che volesse soffiargli il trono. La vera conversione non fu di Costantino, bensì del cristianesimo, che ha aderito alla proposta di ergersi a religione civile e di diventare religione di Stato. Tanto è vero che alla fine di quello stesso IV secolo, 380-85, un altro imperatore, Teodosio I, decreta che la religione cristiana dà licita, cioè ammessa, giustificata, diventi la sola religione possibile. Nel giro di 60-80 anni la situazione si è completamente ribaltata e i cristiani, da perseguitati, sono diventati persecutori. Chi si ostina a venerare gli antichi dei rischia pene severe, Teodosio dice, fino alla pena di morte. È manifesto per tutti i miei scritti e detti, riferiti da persone intelligenti e degni di fede, che io intendo il mondo e i mondi e l'università di quelli esser generabili e corruttibili. E questo mondo, cioè il globo terrestre, aver avuto principio e poter aver fine, similmente le altre stelle, che sono mondi come questo è mondo, o alquanto migliori, o anche alquanto peggiori per possibile, e sono stelle come questa è stella. Tutti sono generabili e corruttibili, come animali composti di contrari principi. Per questo motivo abbiamo deciso sin dall'inizio che invano altri ci avrebbero intimato gridando di chiudere e di abbassare gli occhi che Dio ha creato aperti e rivolti verso l'alto. Poiché vediamo, non nascondiamo di vedere, né abbiamo timore di dirlo apertamente. E come dovunque la luce è in lotta con le tenebre, così dovunque abbiamo conosciuto l'odio, la malevolenza, i clamori e gli insulti che, con pericolo della stessa vita, si sono stati rivolti dalla moltitudine ottusa e stolta, sobillata dai membri di quel senato che si fregia della propria ignoranza. Non nascondiamo di vedere, né abbiamo timore di dirlo apertamente. Non nascondiamo di vedere, poiché vediamo. Non nascondiamo di vedere, né abbiamo timore di dirlo apertamente. Non nascondiamo di vedere. Noi abbiamo timore di dirlo apertamente, di vedere. Di vedere. Di vedere. Di vedere. Abbiamo fatto un piccolo salto in avanti fino al 600, poi quasi un piccolo accenno al 700. Abbiamo fatto un grande salto indietro fino a Costantino. Torniamo finalmente a Bruno, perché adesso con questi due salti riusciamo a inquadrare meglio quello che ha detto e fatto e le conseguenze. Torniamo a Bruno, al suo rapporto con Mocenigo, nella cui dimora veneziana è andata a stabilirsi nel marzo 1592. Dura poco. Forse Bruno si annoia, forse ha di meglio da fare. Fatto sta che in maggio, tre mesi, informa Mocenigo che deve tornare a Francoforte per dare alle stampe certe sue opere. Il nobiluccio si irrita. Pensa che Bruno abbia trovato un pretesto per interrompere le sue lezioni. In breve lo fa sequestrare in casa e corre a denunciarlo all'Inquisizione. Afferma che il filosofo ha bestemmiato, che disprezza la religione, che non crede alla Trinità, che crede invece nell'eternità del mondo e che esistano mondi infiniti, che pratica le arti magiche, che nega la verginità di Maria. La sera stessa Bruno viene arrestato e rinchiuso nelle carceri dell'Inquisizione di Venezia, in San Domenico a Castello. Il Sant'Uffizio, o Tribunale dell'Inquisizione, oggi ha cambiato nome, da qualche anno, si chiama Congregazione per la Dottrina della Fede, è una magistratura competente, appunto, per i reati contro la fede. Giudica chi manifesti opinioni difformi da quelle della Chiesa su argomenti di dottrina, ma anche filosofici e scientifici, purché collegabili alla fede. Bruno sulle prime non dà molta importanza alle accuse, le giudica dei pettegolezzi, essendo le sbiadite dicerie del Mocenigo sorrette da testi scarsi, di poco spessore. In luglio, dopo 7 udienze, il filosofo taglia corto, chiede perdono in ginocchio davanti ai giudici, confidando che una blanda condanna metterà fine al tutto. Si sbaglia. Il Tribunale veneziano è solo un organo periferico del Sant'Uffizio, che sta a Roma, e gli atti devono essere trasmessi a Roma. I giudici romani leggono quei documenti con altro spirito e in vista di scopi che hanno solo in parte a che vedere con l'imputato. Esaminati gli atti, l'Inquisizione chiede che Bruno sia trasferito a Roma per essere nuovamente processato. Il filosofo arriva a Roma alla fine di febbraio del 1593 ed è subito rinchiuso nelle carceri del Santo Uffizio presso San Pietro, oggi trasformate in uffici. Sa che la sua posizione adesso è più grave, ma inizialmente continua a non darsene troppo pensiero, anche perché conta sul misticismo del Papa Clemente VIII. Si dice di lui che sia comprensivo con i filosofi per via di certe amicizie giovanili tra i neoplatonici padovani. In realtà Ippolito Aldobrandini, arrivato al soglio di Pietro, si è circondato di consiglieri e confessori che s'ostinano a ripetere di quanto pericolosa sia per la Chiesa ogni corrente di pensiero diversa dalla filosofia scolastica. I papi hanno spesso, tutti i sovrani hanno spesso questi consiglieri assillanti. Su Bruno vengono acquisite nuove testimonianze, tra le quali quella di un certo frate Celestino, cappuccino, al secolo Lattanzio Arrigoni, veronese, anch'egli giudicato eretico, probabilmente afflitto da turbe psichiche, un mezzo matto. È stato in cella con Bruno a Venezia. Il frate rivela che Bruno in carcere proclamava eresie e prorompeva in oscene bestemmie. Di particolare efficacia viene considerata la deposizione poi di un certo Francesco Graziano, un copista udinese, un tipografo, dice diremmo, che sa di latino ed è quindi considerato persona colta, capace di conversare con Bruno in quella lingua che ormai non parla quasi più nessuno. Secondo Graziano, il filosofo ha messo in dubbio dogmi rilevanti della dottrina cristiana. Aggiunge che il nolano s'abbandonava a pratiche occulte ed esorcismi negando il valore della messa. Passano i mesi, gli interrogatori si susseguono, 10, 15, 18, alla fine saranno 22, alcuni stricte, cioè accompagnati da tortura. L'imputato si difende, ribatte le accuse. Mosè è mago, certo, ma c'è nella magia una forte potenzialità conoscitiva che non è giusto trascurare. Molteplicità dei mondi, certo, ma l'ipotesi non contrasta con l'onnipotenza divina, anzi la esalta. Il mondo nella sua forma attuale è stato creato, certo, ma questo non vieta di considerare che la materia al pari di Dio sia eterna, vale a dire essa stessa immortale e immutabile. E poi, se la materia fosse davvero così, non vorrebbe dire che altri mondi potrebbero essere abitati da creature intelligenti, simili alle creature umane. Se Adamo ed Eva non avessero commesso il peccato originale, non sarebbero stati essi stessi immortali. Nella sua teoria, in questo accavallarsi di risposte ai giudici che lo ascoltano, impassibili, c'è il superamento dell'ipotesi tolemaica definitivo che mette il sole immobile al centro dell'universo. È Copernico, c'è Galileo che arriverà di lì a poco. Si era dovuto attendere il 1543 perché l'ipotesi scientifica che fosse il sole al centro del nostro, dell'universo che ci è più vicino, ricomparisse in un libro che segna l'inizio dell'astronomia moderna, il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico. È proprio lui, Giordano Bruno, a dare risalto a quel del suo capolavoro del 1584, La cena delle ceneri. In quelle pagine non solo difende Copernico, ma delinea un universo nuovo. Non si limita a porre il sole al centro di un sistema di stelle fisse. Arriva a intuire uno spazio infinito con infiniti mondi in evoluzione per un tempo infinito. Scrive, esistono innumerevoli soli e innumerevoli terre ruotano attorno a questi. Una teoria che anticipa di secoli le scoperte degli astronomi e che lui fa senza nemmeno un cannocchiale, ma che in sostanza rende eterno l'universo, esclude l'idea di un Dio creatore, si avvicina semmai a quello che poi sarà il buddismo. Bruno è uscito dal cristianesimo e lo pagherà caro. Thank you. Pochi anni dopo il suo martirio di Bruno, nel 1609, un oscuro professore di matematica di Padova di nome Galileo Galilei viene a sapere che in Olanda è stato inventato uno strano strumento, un tubo d'ottone con interno delle lenti che consentono di avvicinare molto gli oggetti. Ne costruisce uno, lo punta verso il cielo e scopre attonito che la Luna ha monti e valli, Venere ha fasi simili a quelle lunari, Giove ha 4 satelliti che gli girano intorno, Saturno presenta strane anomalie, il Sole ruota su se stesso, le costellazioni della Via Lattea sono composte di innumerevoli stelle. Le scoperte entusiasmano la gente, ma inquietano la Chiesa. Il 25 febbraio 1616 il Sant'Uffizio, per provvedere al disordine e al danno, stabilisce per sentenza che il Sole sia centro del mondo e immobile di moto locale è proposizione assurda e falsa in filosofia, formalmente eretica, per essere espressamente contraria alla Sacra Scrittura. Galileo viene imprigionato e processato nel 1633, gli si ordina 7 voti a favore, 3 contrari, di abiurare, e abiurerà con la formula che all'inizio di questo racconto, di questa conversazione, abbiamo tutti ascoltato. Con Bruno le cose vanno in maniera diversa, non si piega. Passano i mesi e gli inquisitori si rendono conto di essersi cacciati in un vicolo cieco. L'imputato non reagisce come ci si sarebbe aspettati. Solo davanti alla corte di un regime assolutistico, Bruno avrebbe in teoria 2 modi per salvarsi. Abiurare le sue idee, come farà poi Galileo, o dimostrare di essere stato frainteso, che era un altro modo di abiurare, salvando, per così dire, la faccia, ipocritamente. In realtà egli confuta le accuse più grossolane, per il resto difende la sua filosofia cercando di dimostrare che si tratta di un'ortodossia compatibile con quella ufficiale, tergiversa, schiva, ribatte, duella con la corte, non curante del fatto che i suoi giudici hanno già pronto il cappio col quale gli stringeranno la gola. Il processo però non va avanti, talché all'inizio del 1599 il cardinale Roberto Bellarmino afferra con decisione le redini del processo. È un toscano gesuita, è entrato nell'ordine a 18 anni, lì ha passato tutta la sua vita. È acuto, brillante dialettico, molto intelligente, pensatore, più pensatore politico che teologo, come accade spesso a tanti cardinali, anche se è stato da pochi mesi nominato teologo della Santa Penitenzieria. La sua visione del processo è sintetica e politica. Le delazioni e le dicerie calunniose non gli interessano. Ha intuito che l'imputato, con la sua visione di un'infinita aperta ad una pluralità di mondi, ha aperto un'era nuova per la libertà del pensiero, che se si mette in discussione l'edificio costruito sull'interpretazione canonica delle scritture, molte cose rischiano di precipitare. La Chiesa di Roma è una cittadella assediata. In tutta Europa le conseguenze della frattura, della spaccatura fatta da Lutero sono diventate molto gravi. C'è voluta la Controriforma, Concilio di Trento, 20 anni e i provvedimenti che ne seguono, perché la Chiesa riacquisti un certo controllo sui fedeli, soprattutto in Italia. Bellarmino vuole frenare le eresie, ridare alla Chiesa il suo prestigio anche negli ambienti che oggi definiremmo intellettuali. Giordano Bruno sembra fatto apposta per questi obiettivi. Per prima cosa il cardinale fa riassumere un processo diventato quasi incestibile, annegato in un mare di carte, in 8 proposizioni da sottoporre all'imputato. Questi le esamina Afferma di essere disposto ad abbiurare, ma alla condizione che quelle frasi siano definite, le sue frasi, siano definite dalla Chiesa errori solo a partire da quel momento. È un espediente. Vorrebbe far ammettere alla Corte che la sua interpretazione contrasta non con la Scrittura, ma solo con le necessità politiche della Chiesa in quel momento. Bellarmino naturalmente rifiuta e la Corte ribadisce che l'abiura deve essere completa e senza termini. Bruno tergiversa, tenta di restare in vita senza tradire il cuore della sua filosofia, commuove profondamente che un uomo incarcerato da anni, senza protettori né amicizie influenti, abbandonato da tutti, opponga una tale resistenza e tutta la giochi sulla forza logica, la disperata forza logica dei suoi argomenti, che contrappone ai suoi giudici. Il 9 settembre 1599, il XVI secolo sta per chiudersi, si apre la seduta conclusiva alla quale assiste Clemente VIII in persona. La Corte vorrebbe di nuovo sottoporre l'imputato alla tortura, ma il Papa si oppone. Al termine di altre controversie, Bellarmino manda al filosofo un ultimatum: o c'è una abiura netta e senza condizioni, o c'è la morte. Il 21 dicembre, 4 giorni prima di Natale, il filosofo dà alla Corte la risposta definitiva. Non deve né vuole ritrattare, che non ha da ritrattare, che non ha materia di ritrattazione e che non sa su che cosa debba ritrattare. La sentenza di morte viene pronunciata l'8 febbraio 1600 negli appartamenti del Cardinal Madruzzo, alla presenza della Corte Inquisitoria, di un notaio e di alcuni spettatori. Il documento comincia con queste parole: essendo tu Fra Giordano, figliolo del quondam Giovanni Bruno da Nola nel Regno di Napoli, sacerdote professo dell'Ordine di San Domenico dell'età tua, dei anni 50 doi in circa, stato denunziato nel Santo Uffizio di Venezia già 8 anni sono. Bruno ascolta la lettura Genibus Flexis in ginocchio, senza battere ciglio. Lo si incolpa di aver dubitato della verginità di Maria, d'esser vissuto in paesi eretici secondo costumi eretici, d'aver scritto contro il Papa, sostenuto l'esistenza di innumerevoli mondi, affermato la trasmigrazione delle anime, ritenuto la magia cosa lecita, identificato lo Spirito Santo con l'anima del mondo, dichiarato che la Scrittura non è che un sogno e che perfino i demoni si salveranno. Solo a lettura finita, Bruno pronuncia le tremende parole divenute simbolo di ogni martire della libertà. Forse con più timore pronunciate voi la sentenza contro di me di quanto ne provi io nell'accoglierla. I giudici non si lasciano certo impressionare, non considerano di star scrivendo una delle pagine vergognose della storia umana, sono uomini politici, badano agli interessi della Chiesa e non alzano gli occhi da lì. Anche i libri dell'Olano, eretici e terronei e continenti molte eresie e terrori, sono condannati ad essere guasti e abbruciati in un secondo rogo che avverrà sul sagrato di San Pietro. quel momento, dopo la condanna, siamo nel febbraio del 1600, il reo viene consegnato al braccio secolare nella persona del governatore di Roma, Ferdinando Taverna. Nella settimana che passa prima dell'esecuzione, confessori e confortatori si alternano nella sua cella. Se in extremis abiurerà, non avrà certo salva la vita, ma una morte meno atroce. Sarà impiccato anziché bruciato vivo. Roma è piena di pellegrini per l'anno santo appena cominciato. Pensate che alla fine del giubileo se ne conteranno 1 milione. Si pensa che il rogo pubblico di un eretico abbia un alto valore di ammonimento per chi tornerà in un paese minacciato dalla riforma. Per di più, Enrico IV, re di Francia, da poco riammesso nel seno di Santa Madre Chiesa, sapete, con la famosa formula un po' cinica, Parigi val bene una messa, dopo un periodo calvinista ha deluso il Papa concedendo ampia tolleranza ai protestanti con un editto che è molto importante nella storia religiosa dell'Europa, che è l'editto di Nantes del 1598. Forse anche per questo, proprio per fare sfregio a Enrico IV, il martirio di Bruno viene ordinato in Campo dei Fiori, in pratica sotto le finestre dell'ambasciatore francese. All'alba del 17 febbraio, 7 religiosi entrano nella cella del condannato, esortandolo per l'ultima volta al pentimento. Bruno rifiuta, anzi continua a sostenere le sue idee, forse maledice i suoi persecutori, talché si rende necessario legargli la lingua in giova, vale a dire imporgli una specie di morso che lo zittisca. È ancora buio quando il sinistro corteo s'avvia. Lo scortano i confratelli di San Giovanni Decollato con lunghi cappucci calati sul viso, tunica nera, una torcia in mano. Per confortare il condannato gli mostrano tavolette con scene di martirio della vita dei santi. Intonano lugubri litanie, la gente assiste muta, segnandosi al passaggio. Dal carcere di Tordinona, percorrendo via dei Banchi e via del Pellegrino, il condannato giunge sul luogo del supplizio, dove viene denudato e legato ad un palo sotto il quale sono state accumulate fascine ben secche. Subito le fiamme divampano. Per la morsa applicata alla bocca, le sue urla strazianti si trasformano in strani muggiti, subito soffocati dal fumo, sopraffatti dal crepitio delle fiamme. Il giornale dell'Arciconfraternita di San Giovanni così riportò l'avvenuta esecuzione. Giustizia di un eretico bruciato vivo. Giovedì a D16, a ore 2 di notte, fu intimato alla compagnia che la mattina si doveva far giustizia di un impenitente. E però, alle 6 ore di notte, radunati i confortatori e cappellano in Sant'Orsola e andati alla carcere di Torre di Nona, entrati nella nostra cappella e fatte le solite orazioni, ci fu consegnato l'infrascritto a morte condannato, cioè Giordano del Quondam Giovanni Bruni, frate apostata da Nola di Regno, eretico impenitente, il quale, esortato da nostri fratelli con ogni carità e fatti chiamare 2 padri di San Domenico, 2 del Gesù, 2 della Chiesa Nuova e 1 di San Girolamo, i quali con ogni affetto e con molta dottrina mostrandoli l'error suo, finalmente stesse sempre nella sua maledetta ostinazione, aggirandosi il cervello e l'intelletto con 1000 errori e vanità. E tanto perseverò nella sua ostinazione che da ministri di giustizia fu condotto in Campo di Fiori e quivi spogliato nudo e legato a un palo fu bruciato vivo, accompagnato sempre dalla nostra compagnia cantando le litanie e li confortatori sino all'ultimo punto confortandolo a lasciare la sua ostinazione con la quale finalmente finì la sua misera e infelice vita. Il rogo del 1600 segna il massimo tentativo della Chiesa Cattolica di esorcizzare il nascente pensiero moderno. Il tentativo è poi proseguito in modo meno cruento fino al sillabo 1864, nel quale il Papa Pio IX, rifiutando la moderna civiltà, definiva un errore la libertà di culto e d'opinione. Quando nel 1889 venne inaugurato il monumento a Bruno in Campo dei Fiori, Papa Leone XIII inviò una lettera d'ammonimento da leggere a tutti i fedeli, in cui il filosofo veniva ancora una volta diffamato. Il Vaticano ha continuato anche in seguito a premere per far demolire il monumento e torna, bisogna dirlo, ad onore di Benito Mussolini, capo del governo, di aver resistito a quei tentativi. Pio XI reagì facendo proclamare il grande inquisitore Cardinal Bellarmino, prima santo e quindi dottore della Chiesa Universale 1931, da venerarsi come patrono dei catechisti. Recita il suo epitaffio: «La mia spada ha sottomesso gli spiriti superbi». Due giorni dopo l'esecuzione, nell'Avviso di Roma, una specie di bollettino di notizie, si poteva leggere questa cronaca. Giovedì mattina, in Campo di Fiore, fu abbrugiato vivo quello scellerato frate domenichino di Nola, eretico ostinatissimo, ed avendo di suo capriccio formati diversi dogmi contro la nostra fede, ed in particolare contro la Santissima Vergine ed i Santi, volse ostinatamente morire in quelli lo scellerato. E diceva che moriva martire volentieri e che ne sarebbe la sua anima scesa con quel fumo in paradiso. Ma ora egli se ne avvede se diceva la verità. In anni più recenti, Papa Giovanni Paolo II ha affidato al segretario di Stato Cardinale Angelo Sodano un messaggio per il convegno tenutosi a Napoli per il 400° anniversario del martirio di Giordano Bruno, febbraio 2000. Vi si afferma che quel triste episodio della storia cristiana moderna ci invita a rileggere anche questo evento con spirito aperto alla piena verità storica. Il cardinale ricordava che il pensiero del filosofo maturò nel secolo XVI, quando la cristianità era divisa perché Lutero, Calvino e Enrico VIII avevano staccato da Roma intere nazioni. Aggiungeva che le scelte intellettuali del filosofo rimangono incompatibili con la dottrina cristiana. Concludeva: non c'è dubbio che aspetti delle procedure seguite dai tribunali dell'Inquisizione di Venezia e di Roma per giudicare il frate accusato di eresia e il loro esito violento per mano del potere civile non possono non costituire oggi per la Chiesa motivo di rammarico, il rammarico almeno. La religione cristiana fin dall'origine ha avuto, diciamo così, due anime, in quanto religione della verità e religione della carità. Sono due prospettive completamente diverse. In origine la religione era basata essenzialmente sulla carità, anche se il Cristo dice, secondo il passo di Giovanni, io sono la verità. Si deve intendere la verità nel contesto di allora. Verità significava presenza costante del Cristo con noi. Aletheia, verità, etimologicamente significa non allontanamento, non nascondimento. Il Cristo quando dice io sono la verità vuole dire io sono colui che sarà sempre con voi. Non è dunque la verità nel senso in cui lo intendiamo noi come un complesso di dottrine, di una filosofia, è una cosa diversa. Nel corso dei secoli la religione cristiana si è progressivamente allontanato, o perlomeno ha oscurato questo lato per mettere in valore invece l'aspetto verità nel senso moderno, come complesso di dottrine spesso accompagnate dalla garanzia del dogma. Per fare un esempio specifico e concreto, è molto diverso parlare di problemi esistenziali in nome della verità o in nome della carità. Prendiamo il problema, per esempio, della famiglia. Una cosa è ragionare della famiglia con la F maiuscola, affermando una dottrina della famiglia. Un'altra cosa è affrontare i problemi della vita familiare partendo dalla concretezza delle situazioni, quindi i rapporti tra i coniugi, i rapporti tra figli e genitori. E questo è il modo di affrontare i problemi dal punto di vista della carità. Ora, mentre la verità divide, la verità è orgogliosa e la verità spesso si riveste di potere, la carità non è orgogliosa, non si riveste di potere ed è la dimensione che consente a credenti e non credenti di trovare dei punti d'incontro. Questo è Le fiamme e la ragione di e con Corrado Augias, musiche di Alessandro Severa. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.